l'abbiamo fatto, non l'abbiamo mai fatto, però intanto per la negligenza di certi dottori c'erano anche la durezza, la liquido, e mi hanno detto che dopo no, magari poteva entrare qualche duro e era urgente, e io ho detto se non si tratta di un accanimento terapeutico io non mi sento di decidere sulla vita degli altri, quindi fatelo, se si tratta di salvare di loro, loro hanno detto non è che noi li possiamo promettere che la salviamo, noi ci tentiamo, ha detto. E poi ha telefonato mie sorelle, erano tutte d'accordo tranne una che gli ha detto che praticamente per farla vivere di più in questa maniera qua era meglio che non gli facevano l'operazione, però la maggioranza ha vinto, l'hanno operata e è campata per un po' di anni. Vabbè, caspita, per quelli di togliere la vita. Oh, yeah. E comunque è un casino. E niente, a me a volte quando mi capita di andare, ma me l'ha fatto questa cosa qua, me l'ha fatto un bel po' di volte, anche un giorno che sono salito su una barca, su un peschereccio, ho detto io devo scendere da qua perché Dio mi dava quell'impressione strana che c'era qualcosa bolla con la barca. Io me lo sento, guarda che io queste cose qua ci credo. E poi chi gioca con queste cose qua finché ti va bene, ti va bene. Ma se ti si gira che cosa, ti si gira tutto contro, è finito. C'è gente che prende, immaginate, butta quello, quell'altro, e no, su queste cose non si gioca. E bisogna fare anche a te. Allora, adesso ti racconto dell'altro giorno, quando si va a fare queste ispezioni nelle case diroccate, vuole essere in ospedali, qualsiasi altra cosa, bisogna che si portino delle protezioni, tipo acqua benedetta, una croce, un rosario, e niente, questi qui sono andati sprovveduti, e il diavolo si è poi, un'anima diavolata si è possessata di questo qua, capito? Si sono seduti in macchina, dalla live si è visto che praticamente seduto in macchina, c'è la ragazza a fianco e tra un sedile e l'altro dietro si vedeva l'anima, capito? Lo zoom è giusto, capito? Vabbè, per forza. E queste cose bisogna anche lasciarle perdere. Perché se non ti cercano non devi cercare, io la penso così, loro non ti cercano, quindi se ti cercano li bettini e se ne vanno, se ti cercano li bettini e se ne vanno, a volte quando capita gli altri che si apre la porta, a volte si apre la porta di casa da sola, che non c'è nessuno, si apre la porta, guarda dove vai fuori, maledetto, vabbè non lo dico così, però vai a fura, abbigliata a fureggio, vai a fura, lo dico sempre. Questa gente qua pensa di fare qualche cosa fuori dal normale, no? Quindi per loro sono delle emozioni, delle cose che provano, però non capiscono il pericolo. Allora è entrato una medium quando ha visto questo ragazzo così, detto voi vi dovete portare sempre le protezioni, non dimenticatevele, perché le protezioni ci vogliono in caso un'anima, questa è un'anima cattiva, deve essere stata uccisa, roba del genere, ed è indiavolato, capito? E dice c'è entrato del di mattina, io poi non ce l'ho fatta più, ecco. Erano le 4 di mattina, gli ha detto vai al cimitero e stai fuori, non c'è bisogno di stare dentro, e prega perché facciamo il passaggio da te al cimitero, e se ne rientra nel suo posto, diciamo, praticamente. E così ha fatto, però non lo so se poi ce l'abbia fatta a perché lo voleva portare alla luce, questo spirito che impediva a questa bambina di andare alla luce. Sai cosa vuol dire, Gabi? Che praticamente ci sono delle entità che sono rimaste sulla terra, che praticamente per aiutarle a arrivare alla luce, andare in paradiso, eccetera, ci vogliono questi medium che praticamente fanno le preghiere e riescono a farli salire alla luce, capito? Sì, ho capito com'è, però io dico sempre che certe cose bisogna lasciarle come sono, non bisogna cercare nessuno, perché poi ti sto dicendo che se ti si mette contro, hai fatto, ti si divulge già tutto contro, già tutto. Io a volte vedo gente che prende immaginette, le butta, le strappa, le fa, non gliene frega niente, li buttano i santini, i quadri con i santi, queste cose non si buttano, bisogna regalarle. Non le vuoi più, prendi, fai una cosa, ti fai il nome del padre e le porti da Portobello e dici, guarda, c'ho queste immaginette, le volete, ve le regalo. Ma l'immaginetta non si dà mai, non si regala mai. L'immaginetta si mette dentro un cassetto e la lasci nel cassetto. E di lì fatica, non fai neanche male. Quindi, io per queste cose sono un po' delicato e ti ripeto che quando io a volte vado in certi punti a fare qualcosa me ne voglio andare, ma perché me lo sento io, capito? Me lo sento io. Succede anche a me, specie al cimitero, non è una paura, però dopo che faccio le preghiere saluto, faccio il segno della croce e me ne vado, capito? Metto i fiori, quello che devo fare faccio veloce, me ne vado, e così facevo anche da mia sorella, non riuscivo più a resistere più di tanto, capito? Non riuscivo a resistere più di tanto, stavo lì, la guardavo, dicevo, cavolo, come ti hanno ridotto questi bastardi, e vabbè, e comunque sentirai Edna cantando, perché cantando si è ridotto che tanto, quindi falla cantare, fai già, falla cantare, cosa, magari sta pulendo, sta facendo, sta cantando la canzone, non c'è niente di male. Poi su Star Macher, è entrata su Star Macher, perché anche lì entra lì, capito? Facciamo i context e adesso per dire mi hanno ingaggiato a fare un duetto insieme a una ragazza, però non lo faccio perché è un beato la canzone, alleluia, e praticamente devo alzare i tuoni e non fare sì, alleluia vuole, alleluia non è già vuole saputa fare già anche è una canzone un po' particolare, è una canzone un po' particolare. Cosa ti volevo dire? Ma ieri entrati siete? Ma ieri notte? Sì, un pochino, ma poi io me ne sono andato subito, capito? E poi non ci di tu, di notte tardi no, di notte tardi la siamo entrati. Tu non c'eri, sapevo che tu eri là, quindi ho detto non entriamo con Gavino, cosa entra a fare? Non ci siamo ancora entrati di notte tardi, siamo entrati di sera così, e poi di notte no. E comunque io avevo praticamente, mi ero preso questo entusiasmo di guardare queste cose, anche se un po' ho paura, però avevo visto un film che praticamente era di questi ragazzi che si sono trovati tutti insieme in questa casa a festeggiare il compleanno di questo ragazzo. E praticamente uno di questi ha tolto una tavola dove c'erano praticamente i nomi e i numeri, le lettere e i numeri. E si sono messi sulla tavola. Ui, cammino mio, comincia pum, tutte e quattro le ruote della macchina bucate, ha cominciato a fare dispetti, poi questo qua si è dimenticato la tavola a casa di questo ragazzo che hanno festeggiato. La tavola non si usa mai da solo, bisogna farlo sempre in tanti. questo qui ho visto la tappa, non si è messo a fare le cazzate che si sono risolto a farsi questi spiriti cattivi. Cazzo, questo lavorava, faceva il muratore, c'era cioè, ricaduto la trabbia addosso, l'ha ammazzato, l'arsa anche se l'ha ammazzato il gruppo, cioè, diciamo, li ha sterminati tutti. Lo vedi cosa vuol dire? Bisogna giocare, bisogna sempre avere il rispetto, bisogna sempre avere il rispetto. E sono di quell'anima che quando vanno via magari non hanno ritrovato la loro faccia, e allora non cercano nessuno, ma sono sempre qua. E la prima occasione la fanno pagare. La cosa che mi ha fatto più impressione è che pensavo che tu guardando la live avevi uno scudo, dai, vedevi e basta. L'altro giorno questo spirito ha detto che c'era una donna che aveva abortito da poco e aveva abortito due gemelli e gli era morto anche un fratello di incidente, un fratello e una sorella, lo sai che c'era davvero, gli ha detto anche il nome. Cazzo, questo che tu sì sono io, cazzo, voi giù tu lo zutto. Storie strane sono storie un bel strane già, non sai quanti ce n'è di per esempio la gente chiede la rete da pescatore per portargli fortuna, per farli, ma tu lo sai, quando fanno le bestemmie, quando fanno le cose, sai dove vanno a buttare le bestemmie? A mare. E la rete per portafortuna non si usa, perché la rete serve per pescare, e pesca tutto quanto, anche quelle bestemmie, quelle rettine che si danno per portafortuna, che si aprono le macchine, quelle non bisogna averle, non bisogna, soprattutto se hanno pescato. Cazzo, capisci, già me la si disegna la cosa, a me me l'hanno fatta. Ce l'ho io in macchina nel cambio, attaccata, e una in casa, per togliere il malucchio, così mi avevano detto. Ha fatto la preghiera, ha detto queste qui sono reti che hanno pescato. Ha fatto la preghiera e poi me l'ha data, ha detto vedrai che adesso non ti succede più nulla. Lampa di tutto Gianni, lampa di tutto. Butta via quelle reti dalla macchina, da casa, bruciale per carità. C'è meno di zene, capi? È come un'amica mia che ho regalato una bucchia di sasso con le spille colorate. Ci hanno detto, non portarla più in casa, quella lì la mamma gli ha detto. Quelle lì sono cose voodoo. Ma stai scherzando, la rete che si regala per forza fortuna e si dice, guarda questa rete è buona perché ha pescato. Chi sa una cosa, buru yashemi. Oh, yeah. Io ci avevo creduto, dai, forse era il periodo che mi sono un po' tutto male, era il periodo che mi sono separato, eccetera, e mi avevo fatto fare da questa signora, mi aveva fatto vari, vedi a casa che ti posso rirresti. Ha fatto la preghiera e mi ha detto questa qui la prendi in casa e questa qua te la metti in macchina. Io così ho fatto. Vuoi fare il resto. Quando la cosa va male, già una preghiera a Sant'Antonio. Una preghiera a Sant'Antonio e si va, una prevaria, una preghiera a Sant'Antonio e vai avanti. Non lascia perdere i reti, lascia per quella roba, buttala via Gianni, buttala via. Faccio te ne racconto una. Quando c'era nonna a casa, perché nonna abitava con noi a casa, a casa di mamma, no? E un giorno c'era mia sorella che aveva una febbre molto alta e mi ha detto, mia nonna gli ha detto, Mari bisogna portarla da questa signora che gli fa la medicina dell'occhio, deve essere che non l'hanno toccata, le hanno detto che era bella, sai, i vecchi credono a queste cose. E mi ha detto non ti azzardare a portarla fuori di casa con la febbre così alta, mi è uscita, vado a fare la spesa e sto tornando. Cosa ha fatto? Mia nonna l'ha detto burigata e ce l'ha regata di sapere, no, e tu vado a casa e gli ha detto Mari, misurare la febbre a vedere, no, non ne ha più, no, è già passata. visto, te l'avevo detto, l'ho portata. Ma come ti sei permesso? Ti avevo detto di non toccare la bambina con la febbre così alta e tu l'hai portata fuori casa. Mamma, non vi gridi che si trova. No, io la ci credo, sono preghiere già, non è che sono chissà cosa, sono preghiere, ma sono preghiere che si dicono, che si fanno e fanno bene, sono preghiere che fanno bene. Guarda, ti dico una cosa, la miglior arma contro sono le preghiere. Quando esci da casa la mattina, la preghiera, il padre del nome del padre, il padre nostro, ringraziamo che siamo ancora quando ci alziamo, tutto quanto queste cose, anche se non si fa a voce alta, ma si pensa un grazie. Quando metti il piede in terra dal letto è sempre ben guarito. Poi il grazie a chi però non si sa, però devi sempre dire grazie a chi oggi. Si dice, insegnamenti sono questi qua, già senza insegnamenti, senza motivo, perché lui dice perché lui e tu la prendi e basta. Quando uno si alza dal letto si dice grazie anche per oggi e si va avanti. Quello che ho detto io lo faccio ogni giorno, ogni mattina e ogni notte quando vado a letto lo faccio sempre, perché io ho avuto sempre un'educazione religiosa e mio padre addirittura ci faceva fare anche la preghiera prima di mangiare, eccetera eccetera, mio padre ha relazione cattolica eccetera, quindi ho avuto un'educazione molto religiosa, ho fatto il chierichetto, non me ne vergogno, ho fatto lo scout, quindi praticamente io in chiesa era un ambiente mio. Sì, vabbè, perché non c'è vergognare, ma scherzi, io lo stesso andavo al coro, sono separato a catechismo, non è che mi devo vergognare di cosa. Vergognare si devono quelli che stanno sempre, che hanno sempre da dire a male le persone, a voler male la gente dietro le spalle, queste cose qua, quelli già si devono vergognare veramente. Quelli si devono vergognare veramente e devono farsi un bel esamino di coscienza, già quelle cose di reti e cose così fanno solo male, non fanno mai bene. Guarda, meglio che ti metti una bella immaginetta in macchina, nel parasole, nel cambio, perché io ce l'avevo sempre. Il crocifisso attaccato allo specchietto io ce l'avevo sempre. Quindi, è in macchina ancora, tutti oggi ci sono. Io ho il santo protettore degli autisti, adesivo attaccato al vento. Non ti dico, sono andato dai frati a farmela benedire, quando l'ho ritirata la macchina, la prima cosa che ho fatto è farmela benedire. Ho girato 1000 chiese e non c'era nessun prete disponibile. Allora sono andato dai frati a San Francesco e me l'ho fatta benedire e mi hanno attaccato l'adesivo. Sì, anche io quando ho preso la macchina nuova sono andato a farla benedire e dopo di un anno e 9 mesi la disintegrata. Vabbè, i preti non sono tutti uguali, a volte bisogna anche prendere, sì, è giusto farla, è giusto portarla, venga battezzata, venga, dai, è giusto per dargli una, cosa ti posso dire, una benedizione per la lunga strada. Una benedizione per lunga strada, la macchina io l'ho portata a fare battezzare, a prendere, a fare buttare la passata, e con la macchina mi è andata solo male. Tua figlia ti dirà, con la macchina mi è andata solo male, a 147 nuova la giungiaro, solo male mi è andata. Vabbè, vuol dire che doveva andare male, non è certo perché te l'hanno battezzata. Purtroppo, vabbè, sono insegnamenti che ho avuto da casa mia, quindi sempre fatto queste cose. Niente. E comunque ti si diverte a andare a fare queste ricerche e monasteri, in ospedali abbandonati, in manicomi, addirittura ho trovato queste anime che hanno sofferto, le picchiavano, hanno detto che le picchiavano. Avevi saputo la scena di quei ragazzi che andavano, che sono entrati al cimitero? Ragazzi che sono entrati al cimitero, vabbè, io ti parlo un po' di anni fa, per dottore sa fare a prendere, a giocare, a fare casino. Infatti cosa è successo? Non mi ricordo se erano in 6 o in 5, hanno fatto un gruppetto, hanno lasciato da solo a questo tipo che sono nascosti, no? A questo tipo l'hanno lasciato da solo. Facevo rumori, uno si è nascosto dietro una di quelle tombe, diciamo di famiglia, quella aperta. Mi è uscito da dentro, questo ragazzo inizia a correre, prende, lì si aggancia la maglietta, non so dove, e per poco riesce a una sincopa, per poco muore il ragazzo. Se non corrono a portarlo via da lì e non lo portano a controllare, per poco gli viene un malore, un infarto. Una cosa simile me l'aveva raccontata mio padre, che in tempo di guerra si mettevano sul muretto, seduti a fumare, sul muretto del cimitero. E una notte gli è venuto in mente, uno ha detto, chi ha il coraggio di andare in quelle tombe dei cosiddetti, dei poveri, quelle che c'è solo terra, praticamente le croci sono in legno. Chi ha praticamente il coraggio vince un pacchetto di sigarette. E in quel periodo, cavolo, questo che ha preso ci vado io. E questo dice che c'era uno di quei cappotti militari, quelli pesanti. E è andato lì. E praticamente doveva fare un fischio quando arrivava e poi ritornare indietro. A un certo punto dice che gli si è agganciato il cappotto al coso, però quello lì è rimasto sordo muto, è rimasto muto, non è mancata la voce, non ha più parlato. Preso lo spavento, per giocare. Questo qua l'hanno fatto, ma proprio l'hanno portato a controllare perché aveva perso i sensi, dallo spavento, giù di dal basso. Mio cognato ne faceva un'altra con gli amici, si mettevano vicino al cimitero di Porto Torres, con quelle maschere da vichi, ce le ha presenti, quelle che si attaccano al viso, quelle di gomma. E un giorno è passato questo tipo, dice, faceva spaventare la gente, è passato questo tipo, ha detto scusi mi fa accendere, e questo si è avvicinato con la cedina, come si sta accendendo, mi stava facendo, come tutta curriera, l'hanno messo anche sui giornali, infatti poi hanno smesso perché sono ribeccato. Ebbè, ma guarda che non sono giochi da fare, perché se trovi il tipo che scappa va bene, se trovi il tipo che reagisce c'è un coltello in tasca e ti pugnala. Le persone sono imprevedibili, già, le persone sono imprevedibili, uno dalla paura può anche uccidere, quando una persona dalla paura può anche uccidere, purtroppo è così. Se ne hanno fatto tanti giochi strani, che non sono da fare. Oioia, non va bene, ripeti. Comunque, detto questo, a me mi intriga ascoltare queste cose qua che fanno. Addirittura c'hanno due apparecchi, uno che si chiama K2 e serve per trovare il segnale, si accendono le luci sino dalla verde e arriva la rossa. Si accende sino in fondo e vuol dire che lì ci sono presenze. E poi c'è l'altra che invece è il box, che è quello che si sente la voce. Ci sono quelli che la voce la senti proprio perfetta e ci sono quelli invece che si sente un po' confusa, non si capisce molto bene, è proprio voce dell'oltretomba. C'è un gruppo di ragazzi che hanno quello che si sente perfetto e si sentono parlare proprio bene. dice che se parlano al contrario sono indemoniati. Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Si sente una voce così, guarda, sta per sentire. Invece c'è un tipo di box che la fa proprio perfetta, è come noi parlano, capito? Sì, sì, già lo so, già lo so. Facci per un'altra curiosità. Uno si chiama Davide Urbex e l'altro si chiama Gli Amici del Paranormale. Ma dove su YouTube ci sono? Sono su TikTok. Non ce l'ho io TikTok già, non ce l'ho, però anche su YouTube già sono cose serie. Ma io lo seguo quasi ogni notte, quando ne ho voglia, dai che non sono stanco, lo seguo, la prima notte per dire non ce l'ho fatta a seguire se l'avevano liberato, però poi il giorno dopo ho visto che ha fatto un'altra live, e allora vuol dire che è andata bene, dai, che quella sensitiva è riuscita a liberarla. È positivo, sì, sì, sì, sì. No, io se non si sentono cose piane in qualche radio. Cioè, per esempio questo qua, no? Questo qua. Questo qua dice sempre la stessa cosa, questa qua è una di quelle frequenze strane, che questo dice sempre la stessa cosa, sempre, sempre, sempre, poi te ne faccio sentire un'altra, te ne faccio sentire un'altra, aspetta. Sai cosa è questo? Deve essere qualche fax. Assolutamente no. Questo qua si chiama è una stazione russa e si dice che siano dei segnali per delle bombe nucleari, capito? Loro ogni tanto qua prendono, infatti io sono molto spesso in ascolto qua, sono molto spesso in ascolto qui, ogni tanto interrompono e si sentono canzoni strane ogni tanto, ma per pochi secondi, si sono sentiti urla di donna, si sono sentiti gente parlando, ed è una frequenza militare russa, ed è una frequenza militare russa, diciamo è una sorta di guardia per un attacco nucleare. Sì, ma avevi detto la frequenza, sono andato anche a ascoltarli, l'ho sentito anch'io, li ho sentiti, però non dice nulla, cazzo, non si capisce nulla, sono questi rumori, si sentono. E vabbè, comunque, ma chissà se sarà vero. Comunque la Meloni ha fatto una gazzata più grossa di lì. Questa me l'ho persa, l'ho già combinata. È andato in Ucraina a toccare la mano a cosa, a Zelensky, e a dirle che l'Italia li appoggiava. A fare cosa questa mano? È come segno di amicizia, no? Che l'Italia era disponibile anche a fornire le armi, tutto qua. E cosa deve fornire l'Italia di armi? Chi va 4 fusili a Eva e 2 viomi, E non è così, già ce l'ha di armatura, non c'ha il nucleare ma c'ha tante armi. E poi qualcuno ha detto, e invece di aiutare la gente che ha bisogno in Italia, i soldi per il reddito di cittadinanza, per il coso, per come si chiama, il 110%, non ci sono soldi, però per dare le armi a loro sì. Ma io dico una cosa, a me non mi entra niente in tasca, però se tolgo il reddito di cittadinanza, io non lo pubblico, a me non mi interessa. Così un po' di gente perde anche un po' il vizio di non fare niente, di ridere alla spalle di chi lavora. Perché io ho avuto il coso di un paio di persone che magari la mattina passo a prendere il caffè al bar, no? Che quando non lavora il caffè al bar se lo può permettere. Però questi qua magari sono dalla mattina alle 8 fino alla sera, fino all'ora di pranzo, che sono al bar bevendo birra. E ti dicono, a lavorare stai andando? E beh, io sì. E vabbè, io tu vai che rimango qua. Mi fai sordinare, mica dovete cagarci soldi anche a noi. E ti pirare il bruma le bombine, no? E questi qui sì, però c'è gente che sono padri di famiglia, sono persone grandi, che non trovano lavoro perché a una certa età non ti prendono più, capito? Tu ammetti a me che io ho già 63 anni, se avessi dovuto prendere il lavoro dove lo trovo? È un casino a trovarlo. Però ci sono anche quelli, come dici tu, che ci ridono dietro, tipo quelli di colore che li hanno intervistati, hanno detto, ah, io sto, perché sei qua in Italia, mi devi intervistare, e lui, perché qua in Italia mi danno i soldi senza lavorare e in più mi violento anche le donne. Sì, è vero, no, la sono un padre di famiglia. Guarda mia moglie porta anche la camomilla in radio. Mi porta anche la camomilla in radio. Vabbè, ha aperto la parentesi chiusa. Ha un padre di famiglia che ha perso lavoro, sì, è giusto che ci sia un fondo di dignità per persone così, perché non sono. Perché una persona che ha lavorato 40 anni, che ha lavorato 30 anni e la lascia 50 anni senza lavoro, quello va aiutato. Ma un ragazzo di 25-26 anni ha le gare mani buone, deve andare a lavorare. E viso un bel di mandrone, ma un bel di mandrone, che tu li chiami a lavorare e ti dico, ma scusa, quanto mi dai? E dimmi una cosa, e tu quanto vali invece? Io ti do questo, ma tu li vali? Punto di domanda. Sì, per me sono sempre le carte avanti. E poi se mi fai fare qualcosa in più ti dico non è compito mio, io vedevo dei colleghi che entravano da noi, erano tutti giriati, se li facevi fare qualcosa di diverso, io mi adattavo a fare tutto, se mi dicevano già, guarda che c'è quel tomino che non sta scendendo bene l'acqua, lo stasi per favore, lo liberi, prendevo con la pala, prendevo e lo liberavo, non avevo problemi di nulla, invece questi qui ti dicevano non è compito mio, io faccio solo il mio lavoro e basta. La questione di fare ognuno il suo è anche giusto, perché uno si può adattare, un'esigenza ci può essere, lo fa, però se una cosa continua assume una persona, porta per farti la manutenzione del locale, per questi imprevisti, mi segui, assumi uno o due giorni e ce l'hai, finché capita una volta al mese, già fa la cortesia, me lo fermo la scarichi, guarda da un affetto, vai la fai, però questo quando iniziano a succedere tutti i giorni è un po' un problema, comunque camomilla in radio sono benissimo. Ma allora si merita un bacino, è stata brava. Lascia perdere, c'era marmucchia ormai in mezzo e non quando ti vede che vai mamma. Sono gelosi, anche i miei figli facevano così. E adesso va a fare il cane, se baciare il cane si incazza. perché è geloso. Oioia. Sì, già adesso me lo vendo. dovuto superstarmi perché non me ne faccio niente. Mi vendo superstar, le devi più 4, il riporto originale e l'alimentatore. 747. No, la superstar non l'ha mirato, capito? Che te ne pitti tu, il superstar è un bel apparecchio. Non lo do? No, io non l'ho mirato, io ce l'ho sempre qua, non l'ho mai dato, non sai quanto me l'hanno chiesto, non l'ho mai dato. Però l'alimentatore lo vendo, l'alimentatore l'MB più 4 lo vendo perché è un casino, no, per guarda, per metterlo in furgone e rovinarsi preferisco, cioè non, per, non è che lo voglio vendere per vabbè, intanto a casa uso questi. Io il superstar in furgone non lo metto perché intanto si rovina, per vederlo rovinato, per quanto puoi tenere bene, sempre fuori casa e quindi lo vendi a una persona che lo usa tutti i giorni, però a volte me lo guardo e dico no, non è do, no, non è do, non è do, non è venda. È brillante, quando lo guardi è tutto brillante, come fa a dare? Vabbè, comunque, ognuno fa ciò che vuole, la vedi tu. Io penso che se tu lo metti una staffa in furgone, non si muove da lì, non si rovina per niente. Lo metti in un punto dove non stai a colpirlo, che non ti dia fastidio, non si muove, sta tranquillo che non si muove. Il 747 la via buccia il furgone, lo attessi e via. Se ti ferma la polizia, ti ferma qualcuno e ti trova l'apparato con un omologato, sono rompimento, non ti fanno niente, però è un rompimento di scatole. Ma il superstar è omologato? Assolutamente no. Sì, sì, c'è anche scritto CEDI. E c'è, cosa avete fatto? No, no, no, no. L'omologazione sono i 40 canali e basta. Dito un attimo dentro, no, ha più canali di Greenwood. Sì, ma quello lì è stato modificato, capito? Il mio ne ha 40, LSB e USB, però ha sempre 40 canali, capito? Sì, però questo qua non c'ha 40 canali, questo qua fa anche, vende, questo qua fa anche 10 metri. Mi segui? Questo qua fa anche 10 metri. Non lo so, arriva sino a 29 qualche cosa. Positivo, come il Magnum, sì, è come il Magnum S9, ha gli stessi canali del Magnum S9, uguale e identico. È stato modificato sicuramente, no, il mio non è così, il mio ha i canali sui e basta, tutto lì. E c'è scritto omologazione, poi c'è scritto c'è. No, no, questo qua ha i canali, no, ma è da lui, è dalla casa, è dalla casa. Allora, ora ce l'ho qua perché addirittura ho anche la scatola. Allora, addirittura è CV, FM, AM, USB, LCD, e poi ha bande A, B, C, D, E, F, poi ha BIP, canali alfa, SVR, CAL, ha tutto. Questo qua, Superstar 2009, poi è il bello di questo apparato qua, che ha lo Smith, è nuovo nuovo, capito? Sì, ma lo Smith del Superstar non è mai stato preciso, è stato sempre un po' vano. No, questo qua è a posto già, questo qua è uno Smith perfetto, infatti io posso dare anche segnali giusti perché comparato, cioè fate la comparazione con il Kenwood di ricezione, il Kenwood è questo, il segnale era uguale, il segnale era uguale. Non c'ha problemi, non ha problemi. E comunque a bande A, B, C, D, E, F, più tutto quanto A, M, R, C, V e queste cose qua, non è omologato. Mi segui? Io, siccome ce l'ho sotto, non ho mai guardato bene, lo sai, però ci guardo, adesso mi ho messo la pulce nell'orecchio, non ho mai guardato bene, perché l'ho usato sempre in AM sul canale 10, basta, non lo uso da tre parti. Ma è il 3009? Sì, il 3009. O il 360? No, 3009. E allora non è omologato neanche il tuo, non è omologato neanche il tuo c'ha banda da A fino alla F. mangi contro lo domani, bene, perché io ce l'ho da tanto, però siccome l'ho messo nell'ultimo scomparto giù, dove c'era l'alimentatore prima, quindi non ho modo di dargli subito l'occhiata come faccio con gli altri apparecchi che ce ne ho più davanti, capito? Ehi, tu prova a guardare e mi dirai, hai ragione. Ma non mi stai dicendo una cosa nuova, non lo sapevo. Addirittura non sapevo manco che andasse in banda laterale, eccetera. Invece poi ho scoperto che va anche in banda laterale. Me l'ha detto un bombolo che il suo andava in banda laterale, e allora anche il mio, vado a vedere, sì, anche il mio va in banda laterale. Non lo conoscevo come apparecchio, dai. Non l'ho mai visto prima. A me me l'ha consigliato Marco Condor, che ce l'ha, esce un bel bene, però ho sentito come usciva, è splendida la modulazione. Perché io male la trovo questa voce? Io quando l'uso male esco già. No, assolutamente no, non esci male, esci bene, perché ha una modulazione buona, capito? E l'apparato fatto con cose di vecchia era, con elementi di vecchia era, quando c'hai i componenti di quelli grandi eccetera eccetera, è una cosa diversa, capito? L'apparecchio rende di più, non prende splatter, non prende nulla, in macchina non si sentono rumori. No, questo qua splatter non ne prende. Ma neanche, guarda, no, questa la radio va bene, poi come ce l'avevo regolata io, perché questa cosa io ho preso e l'ho regolata un watt e mezzo già, e va benissimo. Io la mia non l'ho mai aperta, da quando è arrivato l'ho messa lì e l'ho usata subito, non mai toccata, mai toccato nulla. L'unica cosa che gli ho fatto, gli ho messo il microfono amplificato, perché quello suo è uno di quei microfoni che pesa 3 quintali. Secondo me c'ha qualche cosa all'interno, tipo un compressore, qualche cosa, però a me mi faceva uscire il nasino, mi diceva tutti che era nasino, la voce, allora ho cambiato il microfono e così esco bene. Sì, beh, sicuramente sono radio che... sono radio fatte bene, no, non è il contrario. Poi se lo vendo o non lo vendo due soldi. Vabbè, no. Comunque stavo scherzando, no. Perché non lo do. Allora, questo qua è c'ha scritto, c'ha dietro, c'ha la targhetta Aigri, Unione Europea, CRT France SSA. Superstar CRT. No, non è omologato già. Ci sono le manette disegnate dietro. Ma ascolta, CRT mi ha detto, ma qual è quello digitale? No, il Superstar 3009 grigio, tutto bello cromato, non è quello, è CRT. Superstar 3009, sotto la manopola dei canali c'è la scritta CRT. Vabbè, comunque già vanno bene quegli apparati. Io me l'avrei messo in furgone, quello lì ti metti un amplificato in furgone e 747 va alla grande, non c'è bisogno manco di grossi lineari. No, il furgone non ne metto già. Il furgone non ne metto perché mi dispiace mettere un furgone questo qua. Perfetto, io l'ho rimesso adesso in questo preciso istante nello scaffale dove era prima, quindi non le metto in furgone perché il furgone mio rimane fermo anche in paesi che vedono la radio, mi apro il furgone, me lo ruba, poi mi rompe le scatole. No, mi guardo, l'ho rimesso nello scaffale dove era. l'ho rimesso nello scaffale, dov'era Ciccia? Non lo so, matto, mi è convinto, matto, non ero. No, Gabriele non l'avrei dato, perché quello è un apparato che poi va a finire che non ne fanno più e non ne trovi più così, diciamo, mille, perché sono sia quelli che vanno bene come radio, come in tutto. Poi se li attacco 747 lo faccio uscire con 80 armate ancora meglio. Ma già, questa storia del 747 secondo me è un po' una bufala, perché io l'ho provato quello strumento già. Ti devo dire una cosa, che il 747, se lo piloti con più di 4 watt, inizia a dare picchi negativi in modulazione. Da picchi negativi in modulazione, dopo i 4 watt. Sì, con 4 watt ti dà una portata deviata di 60, però a 100 watt non ci arriva, non arriva. Il mio arrivava sino a 80 watt, però dovevo abbassare il power del Galaxy, quando lo portavo a 80 watt dovevo abbassare e arrivavo a 80 watt, poi se lo mettevo al massimo quasi 100 me ne dava, però distorceva, quindi non lo faceva, ne dicevo a tutti che distorceva, quindi abbassavo e me ne dava sugli 80. Sì, lo so, l'ho visto, però a me è lo stesso, a me di portante bianca, se lo metto a 6 watt mi dà 80 watt di portante bianca, però poi modulati c'è da 60, non lo so se è lui oppure cos'è. Per esempio io gli davo 12, un watt e mezzo, un watt e due, un watt e mezzo, e dava picchi a 35 watt, ma picchi positivi, e più di quei picchi positivi importanti, e non sia nell'alimentazione che in radio, diciamo che in potenza, e mi andava bene, quando ti dà 35 watt va bene. E io avrei risaputo che tu più abbassi i watt più la radio è limpida, se te li aumenti ti distorce la radio, non puoi avere l'uno e l'altro, è difficile, almeno che tu abbi dei lineari che praticamente hanno dentro a 20 watt, capito? Ci sono dei lineari che puoi entrarli anche con 200 watt, i valvolari fuori a 3 kW, con 200 watt lì, non lo fa una. Sì, vabbè, io ho fatto un esempio. Se tu puoi entrare con più watt, allora non distorce, è quella la cosa. Lo so, ma quelli lineari lì chi li usa? Cazzo di consumare, ti arrivano con i 7.000 euro al mese. Già lo so, comunque, invece a vedere, in Russia cosa si dice. Ascoltavo tutto. Sì, con quello lì mi divertivo, però avevo più intuito. entusiasmo prima di ascoltare, adesso un po' mi è passata. Mi piace più ascoltarmi la musica, la musica della radio. Io ascolto radio RDS la mattina, tutti passi per RDS, poi mentre mi faccio le cose, mi pulisco le gabbie, faccio dei pappagalli, mi ascolto RDS e fanno gli scherzi, mi faccio 4-6. C'è ma quello è un fatto. Quello è un fatto scatenato. E poi c'è anche cosa? Quella. La Maddalena, sì. 34 minutes. North Mountain 10 degrees east. Questa è la Maddalena. RDS, poi anche la mattina da non vedo delle canzoni, anche la Teniele. Oh, ma io ascolto sempre RDS, prima ascoltavo 105, però secondo chi c'è in macchina, mettevano, parlavano a parolacce, cose, secondo chi c'è in macchina ti ripeti fare la vagogna. Invece RDS c'è Rossella Brescia, che fa gli scherzi, massaggini, cinesi, cavolo, risati. Sì, massaggino cinese, io l'ascolto la mattina, quando sono fuori già l'ascolto. Ma è un fatto scatenato. Ma ora i 105 sono maleducati, i 105 sono maleducati. E dicono come di parolacce, no? Non fa, dai. Prima l'ascoltavamo anche la RAI e poi l'abbiamo girato, abbiamo essere RDS, perché sai, tante volte ti besano i muri dai suoi accosti, non è che ho preferito RDS, mi faccio 4 risate, mi ascolto quei mariti che sono fissati con le macchine, che mi telefona la moglie, che dice che delle suore senza assicurazione mi sono piombate addosso, e quelle suore sì, cantiamoci la canzoncina, preghiamo Dio, ma non mi interessa, io passi mia moglie. sì, sono malati, sono malati. È quella che fanno, che la figlia si vede i quadri, che devono andare a ritirare i quadri, i mobili, che telefonano la madre, oh ma guarda che stanno venendo a ritirarlo, telefonano loro, prima dico, sua figlia ci ha venduto questa roba, dobbiamo venire a ritirarla, che la possiamo venire. Voi non dovete ritirare niente, quella è roba mia, perché la madre magari è gelosa della roba sua, glielo fanno apposta, no? Sì, già sono parte scatenate. Sono fatti scatenati. Va bene. Già, io ti devo lasciare perché domani mattina la sveglia è presto. Domani mattina la sveglia è presto, devo uscire presto e anzi però devo fare cose a casa, poi devo uscire, domani sarò tutto il giorno fuori casa lo stesso. Tutto il giorno. Quindi adesso mi corico, così mi riposo, va bene? Ehi ragazzi, non c'è problema, io domani mattina c'è alle 7 la sveglia, in agio di bisalo a te, anche se non lavoro, devo accompagnare a lì al lavoro. No, io devo... Domani mattina devo, insomma, a Muros, poi a Porto Torres, però a Porto Torres farò tardi, Va bene Gianni, dai, grazie delle 4 chiacchiere del questo, e ci sentiamo, io prima di cena e dopo cena sono sempre là. Se coincide ci sentiamo domani, ti saluto, la pacca sulle spalle Gianni, fammi bene, un saluto a tutti gli ascoltoni, quando volete potete anche entrare, siamo qua, arrivo a risentirci, buona serata, ciao Gianni. Ciao Gabi, buonanotte, potremmo anche per domani, dai, saluto anche tutti gli gli ascoltoni che ogni tanto potrebbero entrare e intervenire. Ciao a tutti, buonanotte.